Se conoscete la risposta, comunicatecela al nostro indirizzo email criitaliano@yahoo.com. Il est 18h sur RFI. Radicina Internazionale. State ascoltando Radicina Internazionale, amici ascoltatori, ben ritrovati. Ecco il sommario delle principali notizie odierne. Cina, interessamento alla dichiarazione nordcoreana sul lancio di satellite.